Cittadini, qui siamo tutti presenti, innanzi a questo locale, io chiamavo l'odore appetitivamente alle più avanti e respiro, e noi possiamo tutti testimoniare che veramente questo locale non è un locale come tutti gli altri raccontano, è un locale veramente, se veramente giusto, come veramente con la figlia da lì, c'è meno così. E allora, cari cittadini, a noi a questo punto abbiamo di ringraziare innanzitutto a tutto il popolo che ha ripetutamente richiesto votare e che ascolta quale sia nelle più parole ampie di respiro. Va bene? Cittadino, innanzitutto vi dico questo.